Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E il Last Minute di oggi ci porta a teatro. Dopo il GR di Radio Popolare si torna in studio, il Breakfast Club anticipa un appuntamento in scena, sarà dall'1 al 4 febbraio, Le Serve, di un autore di cui vi vorrei parlare. Conoscete Jean Genet? Allora, lui è stato tra i più discussi, tra i più criticati, ma anche tra i più ammirati scrittori, drammaturgo, un poeta, e come ho detto, di un Novecento veramente contraddittorio nella sua analisi. Lui truculento, molto, molto, molto, molto crudo, esplicito, e chi più ne ha più ne metta. Posso dire che è un genio assoluto. Poi ovvio, dobbiamo anche fare la tara a tutto questo, perché se non sappiamo scindere un po' l'opera dall'artista, non avremmo motivo di amare Caravaggio, di leggere, non so, Martin Amis e tanti altri, insomma, come ho già detto più volte. Beh, in questa rassegna di artisti io metto anche Jean Genet. Non è certamente un autore che è nelle mie corde, se vogliamo, se non fosse che lui cosa, come mi ha colpito il Nostra Signora dei Fiori, che è tremendo, è un altro lavoro, un libro veramente molto molto intenso. Beh, mi ha colpito come riesce a dare a certe argomentazioni una poesia incredibile, una capacità poetica veramente sublime, e è qui secondo me che sta la sua genialità. Comunque Nostra Signora dei Fiori io lo consiglio assolutamente, magari già lo conoscete, e vi è anche questa drammaturgia che sarà protagonista, come ho detto, dall'1 al 4 febbraio. Le Serve è ispirato, lo scrive nel 1946 a un caso di cronaca realmente accaduto. Sono queste ragazze a servitù di una famiglia borghese che, dopo un rimprovero importante, uccidono la moglie del proprietario di questa villa, cioè nella coppia uccidono la signora in maniera, e ne dà una descrizione assolutamente, ne dà una rappresentazione, per meglio dire, tremenda, insomma, un accanimento, una violenza, e poi quello che succederà dopo. E queste ragazze che dopo tranquillamente vanno a dormire assieme, e nello stesso tempo, durante il processo, l'unica motivazione che avevano come richiesta era condividere la pena. Ecco, questo dovrebbe essere l'unica cosa che accomunava e che portasse la conclusione del processo. Insomma, è stato riportato dalla regia di Veronica Cruciani, che la nostra Viola Balugania così ha assistito nella conversazione che all'Arena del Sole per presentare Le Serve ha tenuto per tutta la conferenza stampa di presentazione e dare anticipazione delle Serve. E tra le protagoniste aggiungo e troviamo Eva Robbins, Beatrice Vecchione, Matilde Vigna. La regia è di Veronica Cruciani, appunto, che è stata ascoltata, non è stata una conferenza stampa vera e propria, da quel che ho capito, una conversazione di presentazione. Ne ha tratto alcuni spunti la nostra Viola, li propongo a voi. L'autore Jean Genet, di cui magari torneremo a parlare tra un intervallo e l'altro in questa anticipazione. Sentiamo Veronica Cruciani, regista delle Serve. Questo testo è perché mi dà e mi sta dando ancora la possibilità di affrontare tanti temi che mi stanno particolarmente a cuore, e sicuramente uno di questi è il teatro. Quindi Genet già nel testo inserisce tutta una serie di cambi di ruolo, di travestimenti, quindi, come dire, il tema del teatro è già insito all'interno del testo. Però nel nostro spettacolo questo tema è maggiormente sottolineato, evidenziato da una scelta che è un ulteriore piano che è inserito all'interno dello spettacolo, dove Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, all'interno dell'arco, diciamo, dello spettacolo, interrompono proprio in dei momenti lo spettacolo, mostrando delle frasi, degli appunti di regia molto brevi,